Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il vertice alla Casa Bianca tra i presidenti Trump e Zelensky e l'Europa e l'annuncio del concordato bilaterale Putin-Zelensky entro la fine di agosto. Le reazioni della comunità ucraina in Friuli. 22enne rumena arrestata a Fernetti, era ricercata dalle autorità tedesche per omicidio colposo e rapina aggravata ai danni di un anziano. Telefonate moleste, oggi scattano i primi blocchi, ma sarà veramente così? Di un provvedimento tutt'altro che risolutivo parlano le associazioni dei consumatori. Agriturismo in crescita in Friuli, trainati dagli appassionati di bici, piace la possibilità di gustare prodotti a chilometro zero e di visitare la fattoria con animali. Primo giorno di vendemmia alla cantina produttori Ramuscello e San Vito a Sesto La Reghena. Buone le previsioni per quantità e qualità dopo 2 anni che avevano registrato fino a meno il 30%. Morto a 85 anni Bruno Rocco, il figlio del Paron Nereo. Bruno, dopo un passato di calciatore e di dirigente della Triestina, si era poi dedicato alla storica macelleria di famiglia a Trieste. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Dario Ronzoni e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In apertura ancora le reazioni della sempre più folta comunità ucraina in Friuli dopo il vertice tra i presidenti Trump e Zelensky e l'Europa. In molti sono originari delle zone più vicine ai combattimenti e in molti hanno parenti impegnati sui fronti di guerra. Soprattutto il pace per tutti, per tutto il mondo. Non può far altro che sperare la comunità ucraina in Friuli Venezia Giulia, sperare che questa sia davvero la volta buona per arrivare a un accordo per mettere fine al conflitto. Una comunità preesistente alla guerra che si è ingrossata con l'arrivo di profughi e soprattutto profughe, tante con figli, come nel caso di Svetlana e dei suoi Andri e Misha. 19 anni lui è diventato maggiorenne a Udine, ha frequentato la scuola italiana e ora già lavora come cameriere. Loro padre è militare al fronte, in uno dei punti più caldi. È difficile perché ti preoccupi ogni giorno della sua vita, è molto difficile, con la speranza che magari prima o poi ci incontriamo tutti e facciamo una vita insieme. Li assiste la presidente della comunità ucraina in Friuli, Vittoria Schiba. C'è la sensazione che si sia vicina una svolta? Noi speriamo, sì, abbiamo questa sensazione perché uniti si vince. È stato bello vedere rappresentanti dell'Europa tutti uniti attorno all'Ucraina, perché stiamo difendendo un mondo che rispetta il diritto internazionale. Camilla, 22 anni, originaria di Sumi, una zona non lontana dai combattimenti. Che cosa dicono le amiche, gli amici, i parenti che senti lì? Anche loro hanno la speranza, hanno paura perché sentono più i rumori, eccetera, però anche loro hanno la speranza. I miei amici, diciamo, sono rimasti lì, nessuno non è andato via, quindi hanno loro più la speranza invece di noi. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca registra l'arresto di una 22enne avvenuto durante un controllo al valico di frontiera di Fernetti. Era accusata di omicidio e rapina aggravata in concorso avvenuto a Berlino l'aprile dello scorso anno. La vittima, un anziano. Aveva rapinato un anziano a Berlino dopo averlo drogato nel suo appartamento e l'uomo, un 88enne tedesco, era deceduto per polmonite alcuni giorni dopo a causa dell'intossicazione. La donna, di origine rom, poi si era data alla fuga. Una giovane rumena è stata individuata e arrestata oltre un anno dopo i fatti, la scorsa settimana a Fernetti, nel corso di normali controlli al confine. Su di lei pendeva un mandato di arresto europeo ai fini di estradizione emesso nel giugno del 2024 dalle autorità tedesche per omicidio, lesioni personali e rapina aggravata in concorso. Ad aprile dello stesso anno era entrata nella casa di un anziano tedesco assieme ad altre 3 donne connazionali, somministrandogli tranquillanti e rubando denaro e preziosi. La donna di 22 anni è stata fermata per un controllo dagli agenti in ingresso in Italia mentre viaggiava a bordo di un'auto con targa francese condotta da un connazionale. Gli accertamenti dei documenti, assieme a quelle sulle impronte digitali, unite all'attivazione dei canali internazionali di polizia, hanno permesso il riconoscimento della donna e fatto emergere il provvedimento di arresto. La donna è stata portata al carcere femminile del Coroneo a Trieste a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'estradizione in Germania. Le altre responsabili del fatto erano state rintracciate in Romania e Svizzera nei mesi scorsi. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. A San Daniele questa mattina un uomo di oltre 70 anni è stato travolto dalla sua stessa automobile mentre era impegnato ad aprire la porta del garage. L'uomo, sceso dalla macchina, non aveva azionato il freno a mano in modo sufficiente per bloccare l'automobile, che, seguendo l'inclinazione della strada, si è mossa e lo ha schiacciato contro il muro. Per fortuna non ha riportato ferite gravi, è stato comunque trasportato con l'elicottero all'ospedale di Udine per accertamenti. Aveva patente e carta d'identità false e l'uomo, individuato la scorsa settimana da una pattuglia della Polizia Locale di Trieste durante il rilievo di un incidente di lieve entità sul Colle di San Giusto. I documenti presentati a prima vista sembravano in regola, ma un esame più attento presentavano alcuni elementi sospetti. Dopo aver appurato che la patente non figurava nel database ministeriale, gli agenti hanno accompagnato l'uomo alla caserma San Sebastiano per ulteriori controlli, in cui è emerso che anche i dati della carta d'identità non corrispondevano. Con i dati forniti, l'uomo aveva a suo carico una nota di rintraccio emessa dalle autorità spagnole, ma una nota di rintraccio era emessa insieme a un ordine di carcerazione anche per le generalità emerse dai controlli. A suo carico sono state formulate allora le ipotesi di reato per falso ed uso di atto falso, sostituzione di persona e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale, oltre alla guida senza patente. Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno su gran parte della regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 25 gradi e mezzo, il mare è poco mosso con una temperatura di 24 gradi e 5 decimi, a Gorizia 27 e mezzo, a Udine 27, a Pordenone 26, a Tolmezzo 24 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 21 e mezzo, a Tarvisio 21, a Sappada 19, sul Piancavallo 18 gradi e mezzo, sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 15 gradi, a Lignano 26 gradi e mezzo, la temperatura del mare qui è di 26 gradi e a Grado la temperatura è di 26 gradi, quella del mare di 25. Le previsioni per oggi su pianura e costa, cielo sereno poco nuvoloso, sulla zona montana variabile, sulle Alpi Carniche, nelle zone al confine con il Cadore, non si esclude qualche locale breve rovescio nel corso del pomeriggio, i venti sono di brezza. Per domani al mattino cielo variabile su pianura e costa, nuvoloso sulla zona montana con i primi rovesci e temporali sparsi. Dal pomeriggio possibili rovesci e temporali più diffusi, qualche temporale potrà essere anche forte, specie su pianura e su costa. Ulteriore lieve calo delle temperature. Agriturismo a gonfie vele in Friuli, un trend in crescita da anni che quest'estate viene confermato. Alcuni esercizi non hanno neanche chiuso per ferie per far fronte alle richieste dei clienti, tanti provenienti dall'estero. Anche in Friuli Venezia Giulia è l'estate degli agriturismi, del turismo esperienziale, della vacanza nell'entroterra. Dalla fattoria agrigelateria con prodotto a chilometro zero alla realtà con camere e degustazione di vini nella prima cintura urbana, passando per l'azienda vitivinicola nella zona collinare. Tutti i gestori si dicono più che soddisfatti dell'andamento della stagione. Turismo estero ce n'è, gira, dice Andrea Listuzzi, titolare di una fattoria a Pavia di Udine. Fortunatamente siamo adiacenti all'Alpe Adria e lì c'è movimento di turismo in bicicletta che viene, si ferma per un break, uno spuntino e poi riparte. Ad Adegliacco il cicloturismo è per il 90% straniero, il turista enogastronomico invece è prevalentemente italiano. Dall'anno scorso l'agriturismo di Marzia Tonutti offre anche la possibilità di una vendemmia turistico-didattica, un'ora con i vendemmiatori in campo, rudimenti della vinificazione e successivo pranzo con degustazione con gli stessi professionisti. Nei periodi di bassa stagione la differenza la fa la fidelizzazione. Private aziende e rappresentanti si lavora con chi si sposta per affari e preferisce un ambiente familiare, un aperitivo con una chiacchierata insieme, rispetto agli hotel commerciali con colazione e ciascuno per conto proprio. Tanti anche i jazzisti, continua Tonutti, per il buon rapporto con la vicina sala di registrazione a Cavalicco. Francesco Comelli, titolare di un agriturismo a Nimis, quest'anno non è riuscito a far ferie, troppi clienti ed è difficile trovare personale, ci dice. Vendita diretta del vino, tutto pieno fino a ottobre, le prenotazioni si sono impennate da Pasqua. Meno italiani degli anni passati, tuttavia, ci sono ad agosto, ma per il resto dell'anno tanti austriaci e tedeschi e turisti di passaggio dall'est Europa. Spendono meno degli italiani questi ultimi e spesso e volentieri fanno solo una tappa per una notte. Come sulle spiagge del litorale, anche qui la sfida è far tornare i nostri connazionali. Forse c'è la tendenza ad andare all'estero, dice Comelli, invece chi viene anche per la prima volta torna sempre contento. Nimis, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Continuiamo ad occuparci della vendemmia oggi iniziata alla cantina produttori Ramuscello di Sesto al Reghena. Le condizioni climatiche hanno un po' rallentato la maturazione delle uve che tuttavia non sono state compromesse. Primo giorno di vendemmia, la cantina produttori Ramuscello e San Vito, che è una cooperativa da 700 soci e quasi 1000 ettari vitati a Sesto Arregna, in Friuli Occidentale. Siamo con il direttore Rodolfo Rizzi, a cui chiediamo che vendemmia ci aspettiamo per quest'anno, che è stato particolare dal punto di vista del meteo, con un giugno caldo e secco e luglio piovoso e anche con eventi meteo importanti e con grandinate. Sì, ci troviamo di fronte quest'anno a una situazione molto particolare perché il meteo ha inciso notevolmente sull'andamento di maturazione dell'uva. In effetti quelle estati caldissime e la tanta pioggia che è stata fatta abbiamo un po' accelerato anche la maturazione. Oggi ci troviamo in una situazione dove le zone grandinate di luglio le stiamo vendemmiando, quindi stiamo un attimo vedendo un po' i primi risultati, però ci si aspetta sicuramente una buona vendemmia. Sia per quanto riguarda la quantità sia la qualità? La quantità dovremmo essere sui valori della media degli ultimi anni, quindi leggermente superiore rispetto allo scorso anno. Come qualità sappiamo benissimo che il meteo fa la differenza nella vendemmia, però ad oggi non abbiamo riscontri negativi. Con quali varietà avete iniziato? Si inizia con le varietà precoci, abbiamo iniziato con i pino grigi e poi nei prossimi giorni passeremo ai pino neri e a seguire le altre varietà. La vendemmia è meccanizzata praticamente del tutto, però qual è il punto sulla difficoltà di reperimento di manodopera? Cioè, fortunatamente la vendemmia è meccanizzata al 99%, la difficoltà di reperimento manodopera è nella fase di trasformazione. Abbiamo assunto diversi stagionali che sono gran parte sono degli immigrati con regolare permesso di soggiorno. Ramuscello di Sesto Arregna, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Da oggi l'autorità delle comunicazioni vieta le chiamate nazionali da finti numeri fissi italiani, ma bisognerà attendere il 19 novembre affinché gli operatori telefonici del nostro paese siano obbligati a bloccare anche quelle da mobile. Ma per le associazioni dei consumatori questo provvedimento non sarà risolutivo. Ne abbiamo parlato con Barbara Venuti, vicepresidente di Consumatori Attivi, per sapere se saremo un po' più al riparo. Saremo disturbati un po' di meno per quanto riguarda l'utilizzo delle numerazioni fisse, perché oggi prende il via l'adeguamento per quanto riguarda appunto i filtri anti-spoofing da parte degli operatori telefonici, proprio per evitare questo continuo, diciamo così, essere purtroppo oggetti di telemarketing aggressivo. Questo per evitare appunto, grazie a questi filtri che dovranno essere messi in campo da oggi degli operatori telefonici, che vengano clonati i numeri fissi da parte di call center esteri. L'utente non deve fare sostanzialmente nulla perché è un'attività a cui provvede direttamente l'operatore telefonico e che dovrebbe filtrare, diciamo così, una parte di queste chiamate aggressive. Il problema si risolve in parte perché ricordiamo che ci sono però altrettante società italiane note e registrate che purtroppo continuano e continueranno a comportarsi in modo appunto aggressivo, con contatti ripetuti quotidianamente per l'attivazione di svariati servizi. Un primo passo per quella che è una lotta contro questa aggressività. Il secondo passo avverrà fra 3 mesi, no? Perché l'adeguamento richiesto agli operatori telefonici dovrà avvenire dai 3 ai 6 mesi, quindi oggi riguarda le numerazioni fisse e con il 19 di novembre verranno coinvolti anche i numeri dei cellulari. Ma perché aspettare 3 mesi? Perché la norma ha chiesto che questo adeguamento da parte degli operatori telefonici avvenisse con questa tempistica, proprio perché non è l'utente a farsene carico, ma è l'operatore telefonico, quindi c'è anche una difficoltà logistica nel creare un software e un filtro in grado di andare a intercettare quelle numerazioni straniere che quindi clonano le numerazioni fisse affinché io utente sia ingannato a mia insaputa, quindi è un adeguamento sostanzialmente pratico che richiede del tempo. Missione in Cina per un gruppo di studenti del liceo Carducci Dante di Trieste, l'unico istituto superiore della provincia che offre l'insegnamento della lingua cinese. Un viaggio di istruzione che ha dato i suoi frutti. Sentiamo. Potranno studiare gratuitamente in una prestigiosa università cinese e sono già nel radar di un'importante azienda biotech che aprirà una filiale in Friuli Venezia Giulia. Sono gli studenti e le studentesse del liceo Carducci Dante che hanno scelto di studiare cinese all'indirizzo linguistico o economico-sociale. In 40 sono da poco rientrati da un viaggio di istruzione di 2 settimane organizzato dalla scuola. il professore di cinese Xu Gao. Abbiamo fatto un bel giro di 4 città principali della Cina, quindi Shanghai, Chengdu, Xi'an, Pechino e anche base ministeriale di città di Qinghuangdao, che è Beidaihe, dove vive anche il presidente Xi Jinping all'estate. E abbiamo fatto questo bellissimo viaggio giusto per aprire gli occhi alla visione di oggigiorno, in questo momento particolare, di fare conoscere la vera Cina ai nostri ragazzi che hanno studiato lingua cinese. Ariel Usai, studentessa neodiplomata. Da subito ho sempre avuto una grande passione per le lingue, infatti il cinese mi ha appassionata sempre molto. E non continuerò a studiarlo all'università, però preferirei studiarlo per conto mio. Complessivamente il costo del viaggio è di 3.000 euro, un investimento ripagato con entusiasmo. In particolare la neodiplomata con 110 lode Martina Milani ha deciso di iscriversi in lingua orientale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Ero molto molto emozionata, molto entusiasta appunto di vedere questo nuovo mondo che alla fine, che ho studiato appunto tutti questi anni, e appunto vederlo fa tanto, ecco, è molto impattante. La dirigente scolastica Carmela Testa. È stato un viaggio che ha sicuramente aperto nuove strade al nostro istituto, perché abbiamo stretto un accordo con l'Università di Yeshen e questo accordo prevede che i nostri studenti possano studiare gratuitamente in questa università e poi essere inseriti immediatamente nel mondo del lavoro. A novembre un altro viaggio di istruzione di 10 giorni. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione Città di Udine, ha un nuovo presidente. A guidare il sodalizio sarà Stefano Pol, la cui nomina è stata approvata all'unanimità durante l'assemblea degli iscritti che si è svolta di recente nella sede dell'associazione. Il neopresidente subentra nell'incarico ad Antonella Lestani, un avvicendamento naturale che segna un momento di continuità e rinnovamento nel percorso dell'ANPI cittadina. Stefano Pol, di professione libraio, è già componente del direttivo dell'ANPI e appassionato di storia. È morto questa mattina a Trieste Bruno Rocco, figlio del Paron Nereo, storico allenatore del Milan e di altre squadre di Serie A. Bruno Rocco aveva 85 anni, il decesso è venuto in casa, lascia la moglie e le figlie, accanto a lui il fratello Tito. Anche Bruno Rocco ha avuto un passato di calciatore e poi da dirigente della Triestina Calcio. Appese le scarpette al chiodo, si era dedicato alla storica macelleria di famiglia a Trieste. Coppa Italia, ottimo esordio dell'Udinese nella stagione ufficiale con la vittoria davanti al pubblico di casa contro la Carrarese, finita 2-0 per la squadra di Runiaic, gol di Attà e Bravo. Contro un'orgogliosa Carrarese, decisa a farsi valere nonostante la differenza di categoria, l'Udinese ha messo in campo serietà e applicazione e alla fine la superiorità dei bianconeri è stata più netta di quanto non dica il classico 2-0 maturato al fischio finale. A sbloccare il risultato, Arturo Attà verso la fine del primo tempo, pressione di squadra sulla tre quarti avversaria e il centrocampista francese riesce a rubar palla, a puntare l'aria e a battere Bleve di sinistro da sottomisura. Nella ripresa la Carrarese si fa vedere in area avversaria, ma è solo un episodio. I friulani diventano ancora più pericolosi e il portiere toscano capitola di nuovo al 10° minuto. Azione insistita, tentativi ripetuti di diversi attaccanti bianconeri, difesa non capace di contrastare e alla fine Iker Bravo si trova libero a centro area e per non sbagliare tira una bomba sotto la traversa. 2-0. La reazione della Carrarese è tutta in un'azione di Di Stefano che impegna Sava ma che non cambia, un risultato che qualifica l'Udinese per il turno successivo di Coppa Italia. A fine settembre la sfida con il Palermo, prima però l'impegno più importante, quello del campionato, l'esordio per gli uomini di Runiaic nel posticipo di lunedì alle 18.30 di nuovo al Friuli con il Verona. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. L'equitazione LUISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti delle Friuli Venezia Giulia, festeggia un successo storico agli European Championship 2025 disputati dall'8 al 17 agosto nella cittadina tedesca di Kreuth. L'evento ha visto le giovanissime atlete Giorgia Gori e Giovanna Zamolo rappresentare l'associazione e il territorio. Giorgia Gori ha gareggiato nella disciplina del reining amateur aggiudicandosi il titolo di campionessa europea. Contestualmente Giovanna Zamolo preso parte alle competizioni di Reining Open e Ranch Riding Youth. Il reining è una disciplina dell'equitazione americana, letteralmente significa lavorare di redini e prende origine dal lavoro con il bestiame svolto dai cowboy che utilizzavano i cavalli per radunare, muovere e contenere le mandrie di bovini nelle vaste praterie. Si chiude qui la seconda edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Per la parte tecnica in regia Roberto Cavallari e Mauro Cumin. Da parte di Dario Ronzoni ed Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione. L'augurio di un buon pomeriggio. Prossimo giornale radio alle 15. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.